So there's a part of our way of thinking, our mind, which is conditioned by the society we live in. Quindi c'è una parte del nostro modo di pensare, della nostra mente, che è condizionata dalla società nella cui viviamo, in cui viviamo. So when it comes to the physical laws and the laws of genetics and our mind, for the most part, all these are given. Quindi per quanto riguarda le leggi fisiche, quelle della genetica e la nostra mente, queste sono cose che ci vengono date. For instance, even at the basic level of eyesight. Quindi anche a un livello molto basilare, come la vista. Yeah. If somebody is colorblind, they see the world in a different way. It's just given. Se una persona non vede i colori, vede il mondo in un modo diverso. È una cosa che gli è stata data così. Yeah, it's given, you see. Yes. We don't have a choice over that. Cioè è una cosa che ha ricevuto, non ha nessuna scelta. But all of this has nothing to do with the process of liberation. Ma questo non ha nulla a che vedere con il processo della liberazione. Or at least not directly. O meno, non direttamente. I mean, it would be nice to be brought up in a society which was more spiritual than our own. Sarebbe bello crescere in una società che fosse più spirituale della nostra. Then you would get that social support for spiritual training. Allora si avrebbe quel sostegno sociale per l'addestramento spirituale. The fourth one is karma. Il quarto è il karma. And here we return back really to the wheel of dependent origination. E qui in realtà torniamo alla ruota dell'originazione dipendente. So here we come back to this whole idea of the importance of intentions. Quindi torniamo a questa idea dell'importanza delle intenzioni. And that we have to recognize that we're constantly forming a relationship with the world that we perceive. E quindi che noi stiamo costantemente costruendo una relazione con il mondo che noi percepiamo. And for the most part we act in an unaware way. E che per la maggior parte del tempo noi agiamo in un modo non consapevole. At least as meditators we're becoming more aware of our conditioning. Almeno come meditatori stiamo diventando un pochino più consapevoli del nostro condizionamento. But you've only got to go into a supermarket and just watch people. Ma basta entrare in un supermercato e osservare la gente. And you'll see they're in a dream world. E vedete che sono in un mondo di sogno. And they don't question anything, that's what their life is. E non mettono nulla in discussione, quella è la loro vita. If you saw the film Matrix. So se avete visto il film Matrix. So this is a nice metaphor for the way we are. È una bella metafora per il modo in cui siamo, come siamo fatti. So when we create these intentions, remember, we produce an action. Quindi quando creiamo queste intenzioni noi produciamo un'azione. And these actions produce habits which produce our personality. E queste azioni producono abitudini che producono la nostra personalità. And it's this personality that drives us to our destiny. Ed è questa personalità che ci guida al nostro destino. So if we become aware of these conditionings, then slowly we can change it, move it around so that our destiny changes. Quindi se diventiamo consapevoli di questi condizionamenti, allora noi possiamo spostare un pochino, spostare le condizioni, diciamo, in modo da cambiare anche il nostro destino. Unfortunately, human beings need a great big thump on the nose before they do that. Sfortunatamente gli esseri umani hanno bisogno di sbattere il naso fortemente prima di farlo. You have to have a heart attack. Devi avere un infarto. Or a stroke. O un ictus. And then you think, oh, something's wrong, maybe. So luckily we won't have to wait for that. Ma fortunatamente noi non dovremmo aspettare che capiti qualcosa di questo genere. Because hopefully we've woken up a little bit to how we're creating suffering for ourselves. Perché forse noi ci siamo un po' risvegliati rispetto a come stiamo creando sofferenza a noi stessi. And that, of course, may mean that we change our lives, change our attitudes. E questo può significare che noi cambiamo le nostre vite, cambiamo i nostri atteggiamenti. So, just because we do something good in the world doesn't mean that something good will come back to us. Quindi, non è perché noi facciamo qualcosa di buono nel mondo che allora qualcosa di buono ci tornerà. Out there, there's no human justice. Lì fuori non esiste una giustizia umana. Because when you do something in the world, when you put something in the world, you don't know what conditions that's going to cause. Perché quando voi buttate qualcosa nel mondo, non sapete quali condizioni potrà creare. Remember, the world happens out of various conditions meeting at certain points. Quindi ricordate che il mondo nasce da diverse condizioni che si incontrano in un dato momento. So, for instance, there was a charity in a small town near in the south of England. Allora, per esempio, c'era un'organizzazione benefica in un piccolo paese nel sud dell'Inghilterra. And they thought to send clothes to Africa. E hanno pensato di mandare vestiti in Africa. So they sent lots and lots of clothes to this particular place. Quindi hanno mandato un sacco di vestiti in questo posto particolare. Unfortunately, it ruined the tailor trade. Sfortunatamente questo ha rovinato il commercio degli abiti in quel posto. And so the whole economy began to go down. E quindi tutta l'economia ha cominciato a entrare in crisi. So although the thought was very compassionate, because they didn't know the situation, it wasn't wise. Quindi sebbene il pensiero fosse molto compassionevole, insomma, non conoscendo le condizioni di quel paese, questa scelta non è stata molto saggia. And you could argue that actually you could never be wise enough because you just don't know the conditions in that situation. E quindi si potrebbe dire che uno non è mai abbastanza saggio perché non conosce mai le condizioni di quella particolare situazione. Even the Buddha, when he made rules, did not know the consequence of his rules, and then he had to put little clauses correcting himself. Anche il Buddha stesso, quando ha dettato delle regole, non sapeva quali fossero le condizioni in cui andavano ad agire quelle regole. Ha dovuto mettere delle note per correggere quelle regole. For instance, he made a rule because some monks were saying that they had spiritual insights which they didn't have. Allora, per esempio, ha messo questa regola per via del fatto che c'erano alcuni monaci che sostenevano di avere degli insights spirituali mentre invece non ne avevano. That he made a rule that nobody could talk about them. Allora ha messo questa regola che nessuno ne poteva parlare. Then the monks complained. How do they know when somebody has achieved some spiritual insight or not? Allora poi i monaci si sono lamentati, hanno detto, ma come facciamo a sapere se qualcuno ha avuto qualche insight spirituale? So then he had to say, unless they were true. Allora ho dovuto aggiungere, a meno che non fossero veri. In so many words, in tante parole. That rule is one of our four basic rules, which when you break, you're no longer a monk or a nun. Questa è una delle nostre regole principali, e se non si segue questa regola non si è più monaco o monaca. It's called a defeat, a pragica, defeat. È chiamata una sconfitta. Sconfitta. And even if the monk or nun does not disrobe, they know in themselves that they've broken this rule and therefore are not really monks and nuns anymore. Quindi anche se non lasciano l'abito, però dentro di sé loro sanno di avere infranto questa regola e quindi non si considerano più monaci, monaco o monaca. Indeed, there's no way in the Buddhist order that you can make a monk or nun disrobe. In realtà non c'è nessun modo nell'ordine buddista, diciamo, vari ordini buddisti, in cui si possa togliere l'abito. You can't be defrocked as in the Catholic orders. Non si può essere come si dice, scomunicato? No, non scomunicato, no, no, no, no, no. Come togliere l'abito, smonacati, smonacati, come negli ordini cattolici. Yes. What happens is, if the monks, other monks believe that you have broken this rule, and the lay people believe it also, they ask you to leave the monastery. Quello che succede è che se gli altri monaci, insieme anche ai laici, credono che un monaco appunto abbia non rispettato questa regola, gli chiedono di lasciare il monastero. And then they stop feeding you. E poi smettono di darti da mangiare. And so you have to disrobe to get some food. E quindi devi togliere l'abito per avere del cibo. But yeah, but usually if a monk breaks such a rule, they leave quietly. Ma di solito se un monaco infrange questa legge, questa regola, lascia spontaneamente. But they don't normally say, they give some other reason. Ma di solito non dicono che per questa ragione, danno qualche altra motivazione. They miss the evening meal too much. Per esempio sentono troppo la mancanza del pasto serale. But there were other small rules where he also had to change his mind. Ma c'erano anche delle regole minori dove il Buddha ha dovuto cambiare idea. One time he sneezed. Una volta ha starnutito. And all the monks and nuns were around him said something the equivalent of God bless you. E tutti i monaci e monache intorno a lui hanno detto qualcosa che era equivalente a salute. Il Dio sia. God bless you. Yes, in Italian say saluto somebody sneezes. In English, no, che Dio ti benedica. Che Dio ti benedica. Something like che Dio ti benedica. And he. Che Dio ti benedica. In inglese si dice così quando uno starnutisce. And he said, "Does that help me?" E lui gli ha chiesto, ma questo mi aiuta? And they said, no. No. They said, well, don't say it. Vabbè, allora non lo dite. And so the monks and nuns went around, and when the lay people sneezed, they didn't say, God bless you. I monaci poi sono andati in giro, e quando i laici starnutivano, loro non dicevano più niente. And all the lay people complained and said, why don't the monks bless us when we have a cold? I laici sono andati al Buddha e si sono lamentati, hanno detto, ma perché i monaci non ci benedicono quando abbiamo la freddura? And so they went to the Buddha and said, all the lay people are complaining. E allora sono andati dal Buddha e hanno detto, ma tutti i laici si stanno lamentando. So he said, bless them. Allora lui ha detto, benediceteli. He didn't do any good, but he doesn't do any harm. Non fa del bene, ma non fa neanche del male. So, and of course we have some very strong examples in human history where the best of people end up in unfortunate ways. Quindi abbiamo molti esempi nella storia in cui le persone migliori poi finiscono nei modi più tragici. Not only Jesus Christ, but Gandhi. Non solo Gesù Cristo, ma Gandhi. Martin Luther King. So you see, just because you do good doesn't mean that good will come to you. Quindi vedete che non è che solo perché fate del bene il bene ti arriverà. But within you, you get the benefits of your goodness. Ma all'interno di voi stessi prendete i benefici del fare bene. This is the great heart, the great soul. Questo è il grande cuore, la grande anima. And that is your karma. E questo è il vostro karma. Sì. And then finally there is the Dhamma. E quindi come ultimo c'è il Dhamma. So this is really all the teachings of the Buddha which are to do with liberation. Quindi questi sono tutti gli insegnamenti del Buddha che hanno a che vedere con la liberazione. So here you have, you see, the five laws, and you can see clearly where karma fits in. Quindi qui avete le cinque leggi e vedete bene dove si inserisce il karma. Although I've stressed the fact that just because you do good, it doesn't mean good will come back to you, often of course it does. Anche se io ho voluto sottolineare il fatto che pur facendo del bene non necessariamente questo vi ritorna, comunque qualche volta sì. And the same when you do harm comes back to you. È lo stesso quando fate del male, spesso vi ritorna il male. So now of course, having discussed that, we come to the problem of if this all happens only in one life, and you don't reach liberation, you know, what a pity. Adesso arriviamo quindi al problema che se tutto questo capita in una vita e se tu non raggiungi la liberazione è un vero peccato. Yeah. So then of course we have to understand this law of rebirth. Quindi adesso quindi occorre conoscere questa legge della rinascita. And even though that may be difficult for some people to accept, I always feel that there are some things that we can keep, as it were, on the back burner. Anche se questa è una teoria difficile da accettare per alcune persone, però lo possiamo sempre tenere come una cosa di scorta, insomma, nello sfondo. You know, in an oven where you put something on the back burner, just boiling away. Sì, come avete presente le vecchie stufe, no? Che si mette qualcosa nella una scalda vivante, una cosa per la di scorta, diciamo, no? Da tenere lì in caso di necessità. Mm, just don't make a decision. Quindi non prendete una decisione. Yeah, keep the mind open to that possibility. Quindi tenete la mente aperta a quella possibilità. Because if you do believe in annihilation at death, you may be unfortunately surprised. Se voi credete nell'annichilimento alla morte, potreste essere sorpresi. Sì, in maniera sfortunata. Maybe unpleasantly surprised. Spiacevolmente sorpresi. There was a cartoon which was funny when the Pope died. C'è stata una vignetta, no? Quando è morto il Papa. And as he rose through the clouds of heaven. Man mano che saliva nelle nuvole del cielo. He found himself in the presence of a huge Buddha statue. Si è trovato la presenza di un enorme statua del Buddha. Allora ha detto, oh hell. Oh, all'inferno, all'inferno. Vedete, hell è un'espressione, vuol dire accidente. So you never know, eh? Quindi non si sa mai. Because, as you know, the last pope did not have very good feelings towards Buddhism. Come sapete, l'ultimo papa non aveva dei buoni sentimenti nei confronti del. In fact, in his last book, he upset the sangha in Sri Lanka so much they wouldn't meet him when he came to Sri Lanka. Infatti, lui aveva, come dire, creato. Upset. Fatto arrabbiare il sangha dello Sri Lanka così tanto che loro si sono rifiutati di riceverlo quando è andato in visita. Mm, sì. Even if we don't want to accept the quality of rebirth after death, we have to begin to realize that actually that's what's happening here and now. Quindi anche se non vogliamo accettare questa qualità della rinascita nelle vite successive, dobbiamo però riconoscere quello che sta succedendo qui e ora. Mm. Take for instance just the body. Prendete il corpo, per esempio. So the body we were born with is not the body we have now. Il corpo in cui siamo nati non è lo stesso nel quale ci troviamo adesso. They tell you that every 7 years, every atom in the body has been changed. Ci dicono che ogni 7 anni ogni atomo del nostro corpo è diverso, cambia. So next time you look at your face in the mirror, just say to yourself, you weren't here 7 years ago. Quindi ogni volta che vi guardate nello specchio, dite al vostro viso, 7 anni fa non c'eri. So there is this constant rebirth going on within the body. Cells dying, cells growing. The body's changing all the time. C'è questa continua rinascita all'interno del corpo, cellule che muoiono, cellule che nascono. It un cambiamento continuo. Sì, it keeps being reborn. Continua a essere rinato. It's the same with the mind. The mind that you have now is not the mind you were born with. Lo stesso vale per la mente che avete adesso non è la stessa con la quale siete nati. Mm. Every time new information comes in, something is being changed. The mind is being reborn, it's being refashioned. Quindi ogni volta che entra un pezzo nuovo di informazione, la mente si rimodella, viene cambiata. Mm. So it's understood in the Buddha's teaching that when the body falls away, the subtle body arises out of it. Quindi si capisce dagli insegnamenti buddhisti che quando il corpo fisico decade, quello spirituale sorge da esso. It's known as the citta body, the mental body. Ed è conosciuto come il corpo di citta, quello mentale. And this seeks rebirth somewhere else, either as a human being or in a different realm. E questo cerca la rinascita da qualche altra parte, o come essere umano o in un altro regno. There, as you know, there are people who undergo such experiences when they're being operated on. Come sapete, ci sono delle persone che vivono determinate esperienze quando sono sottoposte a un intervento chirurgico. And there are two experiences of out of the body. E ci sono due esperienze fuori dal corpo. The one where the person actually leaves the body and sees their mental body separate from their physical body. Allora, uno è quello quando uno lascia il corpo e vede il corpo mentale separato dal corpo fisico. Is still part of the phenomenal world. Questo fa ancora parte del mondo fenomenico. I was in a retreat once where a woman said that she was sitting there and she got out of her body and just walked all the way down the garden and walked back. Ho conosciuto una donna in un ritiro che diceva che lei è uscita completamente dal corpo, è andata giù per il giardino, poi è ritornata. And I had a meditator who was working with me who constantly felt the body lifting out from this physical body. Avevo un meditatore che lavorava con me che diceva che aveva questo corpo che continuamente usciva dal corpo fisico. So that's the first type of an out-of-body experience. Quindi questo è il primo tipo di esperienza fuori dal corpo. The other experience that you hear of is when, for want of a better word, consciousness comes out from the body. E il secondo tipo di esperienza di cui potreste aver sentito parlare è, per usare una parola, for want of a better word. Sì, poiché non c'è una parola migliore, è quando la coscienza esce dal corpo. This you hear of most of all as near-death experiences. E questo a volte le sento parlare come esperienze di vicino alla morte. And there are books on this, you can get books. Ci sono anche dei libri su questo, non so in italiano, near-death experience. There was a very good program on the BBC, which through modern technology was able to give you a visual representation of what these people experienced. C'è stato un programma sulla BBC sulla televisione inglese, faceva vedere come attraverso una tecnica visiva che tipo di esperienze avevano queste persone. And in one of the interviews with a psychiatrist or a psychologist, in una delle interviste con uno psicologo, they pointed out that when this person came out of the body during an operation, they described things way down the corridor which the eyes of the person could not have seen. Ecco, quindi hanno dimostrato che questa persona che per esempio è uscita dal corpo durante un intervento chirurgico ha poi descritto delle cose lungo il corridoio, per esempio fuori dalla sala operatoria, che non poteva aver visto con i suoi occhi da quella posizione. And when they asked the psychiatrist what was his opinion of that, quando hanno chiesto a questo psichiatra qual era la sua opinione, he said we'd have to redefine consciousness. Lui disse noi dovremmo ridefinire la coscienza. So when that awareness comes out like that, and it's separated from both the body, the physical body, and the mental body, then this is a spiritual experience. Quindi quando questa consapevolezza esce ed è separata dal corpo fisico e mentale, questa è un'esperienza spirituale. And it happens to people even in meditation. E capita alle persone anche durante la meditazione. So, all that happens, nothing happens at death save that the body, the physical body, falls away. Quindi nulla capita alla morte, al momento della morte, tranne che il corpo fisico termina, finisce. The old conditioning just keeps rolling on. Ma il vecchio condizionamento continua ad andare avanti. And of course, when we are finally liberated, ma quando siamo finalmente liberati, then there comes a point which goes beyond description. Allora si arriva a un punto che va oltre la descrizione. But again, we mustn't mistake that for some form of annihilation. Ma di nuovo non dobbiamo confonderlo con una forma di annichilimento. So the Buddha was often asked these four questions. Quindi spesso al Buddha venivano fatte queste quattro domande. Which were known as the quadrilemma, dilemma, two questions, quadrilemma, four questions. Era conosciuto come il quadrilemma, cioè il dilemma sono due domande, il quadrilemma sono quattro. Upon death, does the Tathagata exist? Quindi, alla morte il Tathagata esiste? Or does he not exist? O non esiste? Does he both exist and not exist? Esiste e non esiste allo stesso tempo? Or does he neither exist nor not exist? Oppure né esiste né non esiste? The Buddha was silent. Silenzioso, zitto. Zitto. So these things we must discover for ourselves in our own in the fullness of time. Quindi queste cose dobbiamo scoprirle noi stessi con il tempo. So really for us as meditators seeking liberation, it's just to be very clear that the process is contained in the Buddha's own very simple words. Quindi per noi che cerchiamo la liberazione dobbiamo capire che è tutto contenuto nelle parole del Buddha. Semplice, molto semplice. Molto semplicemente contenuto nelle parole del Buddha. That he teaches only three words. Lui insegna solo tre parole. Three words. The law of relativity, E equals MC squared, five words. La legge della relatività, cinque parole. Cinque parole, but the Buddha's teaching is three words in the Pali. Ma gli insegnamenti del Buddha sono chiusi in tre parole in Pali. He said, I teach only dukkha, dukkha niroda. Io insegno solo dukkha, dukkha niroda. Unsatisfactoriness and the end of unsatisfactoriness. Quindi la insoddisfazione è la fine della insoddisfazione. Yeah. So if our searching within the Buddha's teaching is for this purpose, then it will bring us to an answer. Quindi se la nostra ricerca negli insegnamenti del Buddha va in questa direzione, allora ci porterà ad una risposta. So if we just sit quietly for a little minute. Se ci sediamo in silenzio per qualche minuto. And just let whatever thoughts arise and pass away. E lasciamo che i pensieri sorgano e passino.